campione a Baracchino, vero? Qualche ti manda la questura a casa tua. Basta Baracchino, Perché rompe coglione a casa tua? Continua. Poi te fa sotto controllo questi crepi tu e tua madre. Dito che da domani mattina ti crepo di portanti. Da domani ti faccio squillare il telefono, non dorme né tua madre né nessuno.